E allora, quando mancano 3 minuti alle 11 di questo giovedì mattina, siamo, come avevamo annunciato, in compagnia dei compagni del progetto Jazz al Popolo e di un musicista di Hot Club The Jazz, di cui da qualche minuto state già apprezzando la musica. Siamo qua per farci una chiacchierata, visto che da questa sera alla Snia Viscosa, l'ex Snia Viscosa, riprende la rassegna di musica jazz dal basso. Iniziamo magari parlando proprio del progetto di Jazz al Popolo. Ciao, io sono Andrea del collettivo Jazz al Popolo. Per chi non avesse avuto la possibilità di partecipare alla rassegna di quest'estate, magari penso sarebbe utile rispiegare un attimo che cosa si propone il nostro collettivo, con l'aiuto dei compagni della SNIA, che veramente ci hanno dato una mano e una disponibilità totali. Allora, diciamo, partiamo da quella che era, perché insomma questa è un po' di supponenza da parte nostra, la situazione del jazz romano fino a questo momento. Diciamo che il jazz, come la musica e come tutta l'arte in generale, a Roma, parlo di Roma perché è la situazione che conosco di più, è stata un po' sequestrata da alcune lobby economiche sostanzialmente, con l'aiuto e il disinteresse della classe politica, sia di destra che di sinistra, insomma, che hanno governato fino ad ora, insomma. E diciamo che questa cosa si è convertita per tutte le arti in una cosa un po' elitaria. Diciamo che se non c'hai, per farla breve, se non c'hai 50-100 euro in tasca, usci a farsi una serata, insomma, a fruire, no? Può essere un problema. A fruire arte diventa un po' complicato. Fra l'altro, questi signori hanno finanziamenti da parte del comune, finanziamenti da parte dell'Europa, sponsor della Toyota, sponsor dell'Heineken, bip bip, certo. Se può dire Toyota? Sì, sì. E in più, insomma, ti mettono dei biglietti o le consumazioni allucinanti. Allora, sostanzialmente, poi il nostro collettivo si propone anche altro, però sostanzialmente noi volevamo dissequestrare l'arte a Roma e renderla, restituirla alle persone, insomma, no? Cioè, se consideriamo l'arte come bene comune, insomma, noi ci proponiamo di restituirla alle persone. Questo che significa? Significa abbattere proprio i costi della fruizione, cosa che nei centri sociali è assolutamente possibile, perché è assolutamente un dovere soprattutto, e dare spazio a quelli che generalmente lo spazio non ce l'hanno. Limitatamente al jazz, il jazz in particolare vive purtroppo un'immagine molto elitaria. Cioè, a me, diciamo, io da musicista mi capita, insomma, di girare i jazz club e li vedo pieni di persone che raramente vanno lì veramente per ascoltare, insomma, vanno lì perché è figo, perché il locale è esclusivo, perché magari vanno lì pure a festeggiare il compleanno disturbando. Sì, perché si mangia bene. Il concerto, hanno, insomma, sì. Perché un altro tipo di offerta da parte delle. Esatto, quindi purtroppo il jazz, che ha completamente un'altra storia, cioè una storia di ribellione, una storia di affrancamento da una situazione sociale penosa, purtroppo il jazz è diventato la musica d'élite. Ecco, riportiamola invece alle persone, insomma, riportiamola alle masse, restituiamole la sua dimensione di musica popolare. E la rassegna estiva è andata benissimo, quindi è evidente che abbiamo intercettato un bisogno. Fra l'altro, non è che era pieno di gente che capisce di jazz, semplicemente intercetti un bisogno di condivisione e di fruizione dell'arte, insomma. E c'era, ti dico, un rispetto, un silenzio partecipato, che tu nei club non trovi più, secondo me. E quindi, diciamo, ci siamo sentiti in dovere di continuare questa cosa e siamo arrivati, ecco, a Gesù al Popolo 2.0 che si è trasformato in un collettivo, insomma, con grandi discussioni, insomma, grandi, ognuno porta le sue idee e cercheremo di trasformarle in qualcosa di concreto. Questa sera quindi ripartiamo con Hot Club de Zaz, con di cui abbiamo qui un esponente fondatore. Sì, anche fondatore. Luca Pagliani che l'ho scordato. Che propone, fra l'altro, una musica, io ho avuto la fortuna di ascoltarli 2-3 volte, veramente coinvolgente, veramente per tutti i palati, insomma, cioè che non c'è bisogno, ecco, di aver studiato armonia al conservatorio per neanche per noi che la suoniamo. Va bene, io magari a Luca chiedo proprio di presentare un'altra canzone per iniziare ad apprezzare insieme questa musica, così magari dopo ci andiamo a entrare un pochino più nello specifico dei programmi di queste due serate che state organizzando tra stasera e il 29 settembre. Sì, si tratta di Belleville, che è una composizione di Django Reinhardt, che noi abbiamo riproponiamo in modo abbastanza testuale come fedeltà all'originale, però poi ne parlerò, insomma, non abbiamo una fedeltà testuale invece a quello che è la tradizione di questa musica, insomma, la rispettiamo ma la facciamo un po' con un piglio, spero, personale, insomma. Belleville. E allora questa appunto era Belleville. Torniamo in studio dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, dove siamo in compagnia con il collettivo Jazz al Popolo, che è venuto a presentare la riedizione della rassegna di jazz, di musica dal basso, che si è già svolta quest'estate alla SNIA e che ci terrà la compagnia anche in questo settembre. Allora, cosa ci aspetta stasera al Centro Sociale SNIA? Allora rispondo io, Luca Pagliani di Hot Club de Zazze. Vi aspetta Hot Club de Zazze, per l'appunto, che è una formazione che esiste da un certo numero di anni, che adesso io ho approssimativamente dato 2002, mi sembra che sia una cosa così. Noi suoniamo il repertorio di Django Reinhardt, che è un chitarrista zingaro, di origini zingari, manouche in particolare, quindi dell'area francese, che è vissuto tra gli anni 20 e gli anni, è morto nel 53 se non sbaglio. Chi lo conosce insomma non ha bisogno che gli dica chi è, perché è una leggenda della chitarra, è un personaggio molto interessante. Ha rivoluzionato il modo di suonare la chitarra, creando la fusione tra la musica zingara e il jazz di quel periodo. Aveva una tecnica, una facilità di suonare la chitarra che pochi hanno, considerato il fatto che era anche menomato nella mano sinistra, suonava con sole due dita perché le altre le aveva perdute in un incidente che è stato l'incendio della sua roulotte. E questo incidente è stato insomma una sua disgrazia, ma anche la sua fortuna, perché con queste due dita, indice e medio della mano sinistra, riusciva a fare cose che io personalmente non riesco tuttora a fare con tutte e quattro. E comunque niente, il repertorio che ha creato è molto, molto particolare per quell'epoca, è legato eccezionalmente a quella che è la tradizione di tutta la musica underground della storia, perché è proprio una musica appunto vissuta sull'emigrazione, sul nomadismo, e ha attraversato il nazismo. Lui stesso fu quasi mandato nei campi di sterminio, se non sbaglio fu salvato da un ufficiale nazista che però amava la sua musica e che quindi in qualche modo riuscì a fargli avere un lascia passare e rimandarlo a casa invece che nei forni. Poi, come tutti sanno, insomma, il popolo zingaro è stato uno di quelli che ha subito il secondo sterminio più grande della storia nei campi nazisti, quindi parliamo di 500.000 persone. Tuttora non è che se la passino granché bene, anche se quelle cose ne fanno più, però i problemini ce li hanno sempre, e però insieme ai problemini, come io posso testimoniare perché continuo a lavorare pure con i musicisti rom, continuano a suonare in un modo straordinario, sono grandissimi musicisti, quindi siamo abbastanza orgogliosi di portare questo repertorio che presentiamo, che ha insomma naturalmente in questa fase storica molta rivalutazione, tanti epigoni che lo suonano benissimo, molto meglio di noi. Noi, per visto che appunto cerchiamo di suonarlo a modo nostro, abbiamo trovato queste scappatoie, queste scamotage anche per studiare un po' meno, e lo suoniamo come ci pare, quindi non abbiamo gli strumenti tradizionali di questa musica, che sono le chitarre, le Maccaferri, che era un liutaio italiano che costruiva queste chitarre un po' buffe da vedersi, ma che suonano quasi tutti i musicisti di tradizione gitana. Noi le suoniamo con i nostri strumenti, quindi abbiamo un suono che è il nostro. Qualcuno non è contento di questa cosa, ma pazienza, insomma, altri sì, noi soprattutto ci divertiremo, diciamo. Sopravviveremo anche a questo. Ci interessa poi anche perché insomma io personalmente sull'idea di tradizione ho delle perplessità, quando se ho delle parole insomma come tradizione e altre, che quando le sento mi viene un po' da prendere il fucile, perché certe volte sono un po' la così, insomma, custodire una cosa non è sempre necessario, forse, insomma, anche come custodire se io un giorno mi trovassi a dover essere custodito, per dire, non sarei molto contento, preferirei che mi ammazzassero. Tra l'altro questo discorso ci riporta forse un po' da dove eravamo iniziati. Sì, certo, no, io divago, scusa. No, nel senso, questo discorso sulla tradizione del jazz ci riporta, sì, ai saloni ingessati che ci raccontava. Esatto, sì. Sì, di musica, insomma, il jazz ha a che fare, come dicevo prima, con tutte le musiche underground, insomma. Se tu prendi una cosa e la metti sotto una teca, diventa immediatamente un museo, esatto, smette di essere una cosa viva, che è più facilmente commercializzabile, ma più difficilmente utile a chi l'ascolta, forse, no? Cioè, sì, soprattutto comunica meno di se stessa. Il jazz è una musica fondamentalmente aperta a tutti nel momento in cui si faceva, nelle sue origini era la musica attraverso la quale era come i stornelli, insomma, ci si comunicava le cose, si facevano delle gare, le famose jam session erano delle gare tra musicisti che erano delle feste dionisiache, fondamentalmente il sesso era alla base di queste cose, chi suonava più a lungo era quello che aveva la virilità maggiore, era un rito tribale. Fra l'altro, nel caso del jazz, oltretutto, mi sembra anche quello più condiviso da uomini e donne, mentre in altre tradizioni è l'uomo che suona, la donna che sta a casa. Nel jazz c'era pure una certa parità, perché, insomma, se pensiamo, le musiciste di jazz, donne, hanno sempre avuto, come comunque le donne, insomma, delle difficoltà ad andare avanti, ma nel jazz devo dire che ce ne sono di colonne, di persone, se pensiamo, insomma, Billie Holiday, cantanti soprattutto, Bessie Smith, molte pianiste che però sono poco conosciute, ce n'è una che mi frulla in testa adesso, non mi ricordo mai i nomi, vabbè, quindi potevo stare zitto. Comunque, insomma, di musiciste nel jazz ce n'è state tante, e molte sono tuttora riferimento, insomma. Quindi devo dire, una tradizione molto democratica, antisessista. I tuoi dei musicisti? Quelli che suonano con te stasera? Certo, no, assolutamente, grazie Andrea, mi scordo le cose più importanti. E dunque, noi siamo, a parte me, c'è Nicola Puglielli e Roberto Nicoletti alle chitarre, e poi Xavier Rigaud all'armonica bocca e voce, che è quello che ha fondato effettivamente il motore ideologico del gruppo, e lui era un ragazzo francese che conosce molto bene questa musica, è un pozzo di documenti sull'argomento, e quindi ha animato, insomma, appunto, tutta la vita il repertorio del gruppo. E poi al contrabbasso normalmente suoniamo con Pino Sallusti, che però non può stasera, ci sarà Fabrizio Montemarano, che comunque non è assolutamente, è una sostituzione di quelle di lusso, insomma. Va bene, allora magari ci andiamo a sentire ancora una canzone, un assaggio. Sì, io ti avevo dato, se non vado errato, sì, Fos Citan, che è un pezzo mio, un po' mi vergogno, però anche per far sentire, insomma, quello che facciamo di originale. Grazie. torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre in compagnia di Jazz al Popolo, con una precisazione doverosa sul brano che abbiamo appena ascoltato, che era Contropille di Nicola Puglielli. Va bene, noi continuiamo appunto con la presentazione di questo progetto che stasera torna su a calcare i palchi dell'ex SNIA Viscosa. Non so cosa vogliamo aggiungere ancora. Ma io vorrei ricordare innanzitutto l'orario, che stasera alle 10 l'ex SNIA, per chi non lo sapesse, si trova in via Prenestina 173. E volevo ricordare che c'è anche l'appuntamento del 29 settembre, cioè questo discorso qui avrà una continuità, speriamo, per tutta la stagione invernale. Quindi fra due giovedì, perché facciamo giovedì alternati per ora, fra due giovedì ci sarà Ask the Duck, un altro gruppo molto interessante che mischia la musica acustica, mischia, un termine tecnico che ho imparato, mischia, sì, la mischia musicale. Sto dando sfoggio proprio della mia competenza che utilizza sia strumenti acustici sia effetti elettronici, un gruppo che sperimenta molto con Angelo Olivieri, tromba ed effetti, Gabriele Lazzarotti al basso e Claudio Sbrolli alla batteria. Questo sarà giovedì 29 settembre. Questa sera invece abbiamo Hot Club de Zazz con Luca Pagliani, Nicola Puglielli, Xavier Rigaud, Roberto Nicoletti e Fabrizio Montemerano, dei quali credo di aver detto, insomma, non so, vuoto. Che devo dire? Niente, se ci siamo, ricordiamo l'appuntamento di stasera. Andiamo a sentirci ancora un paio di canzoni e ci salutiamo. Sì, qua. Sì, io insomma, ecco una cosa che mi piacerebbe di dire. Forse se Andrea è d'accordo, così mi smentisce in diretta nel caso. Certo. No, è che i musicisti che sono interessati a questo progetto, insomma, la Piazza al Popolo, di farsi, insomma, vivi. E quindi di farsi vivi, perché ci piacerebbe. Noi non facciamo censure, insomma, la gestione è assolutamente orizzontale sui progetti. Non ci interessa che la gente ami questo progetto, come poi del resto è stato già sperimentato in altri spazi sociali, a Centro Celle Aperte, a Forte Prenestino, che abbiamo organizzato Nicola Puglielli in particolare, Massimo Megale, Valentina Pettinelli, sono già arrivati alla seconda edizione di Jazz in Forte, che è animato dagli stessi la principi, strada. Insomma, la strada lo fa, il Collatino pure lo fa da anni, e, insomma, vorremmo sia legare gli spazi sociali, sia avvicinare i musicisti a un modo di suonare e di stare, di vivere la musica un po' diverso da quello che è stato finora. Sì, mettersi un po' in gioco, insomma, anche cambiare un po' punto di vista su questo, che non è un lavoro, è una cosa che va fatta, insomma, anche in situazioni in cui puoi proporre la cosa che altrove non ti fanno fare, quindi avere una maggiore libertà. Io, se mi posso un attimo anche dilungare, mi dilungo brevemente per usare una simbolo. Penso che ci sia, tra le, insomma, le ragioni per cui partecipo a Jazz al Popolo come iniziativa, e un po' la necessità di rincollare il rapporto tra tre componenti importanti della musica. Una sono i musicisti, ovviamente, però le altre due, che altrettanto ovviamente, sono il pubblico e i tecnici. Penso che lo spettacolo nasce e funziona se ci sono queste tre persone, questi tre personaggi sociali che collaborano e che si interessano l'uno dell'altro. Quindi il musicista si deve mettere in gioco, si deve rendere conto che fondamentalmente è un saltimbanco, è uno il cui stato sociale non è fissato da nessuna legge, da nessuna regola, non è normato. Vorremmo essere riconosciuti come lavoratori, però poi sappiamo pure che quando, nel momento in cui lo siamo, ci abbiamo anche un po' paura, perché vuol dire instaurare dei rapporti continuativi, che invece il bello di questo mestiere è proprio che il rapporto non è mai continuativo. Insomma, amiamo la precarietà in un certo senso, non vorremmo che venisse sfruttata, però, per mettercelo sempre in quel posto. Vorremmo essere riconosciuti come lavoratori precari, però con dei diritti, insomma. Il pubblico ha, secondo me, dei diritti e anche però la necessità di partecipare a queste cose. Io penso sempre alla cultura dei rave, per esempio, in cui la festa non è fatta da chi la organizza ma da chi vi partecipa. Insomma, io quando andavo ai rave mi portavo dietro i sacchi della monnezza e i mandarini, cioè qualsiasi cosa potesse essere, andavo anche prima a montare le luci, perché mi faceva piacere partecipare alla cosa. E quindi penso che il concerto, l'evento musicale, non debba essere subito, subito né che ci debba essere, insomma, la famosa Blues Brothersiana rete da polli tra chi suona e chi ascolta, e soprattutto debba essere difeso dal pubblico, perché è un diritto del pubblico avere musica, è un bene comune, come l'acqua, come le cose per le quali si lotta normalmente, insomma, anche poter avere l'arte è un bene comune. Quindi bisogna un po' anche svegliarci noi che andiamo ai concerti. Io mi sento anche pubblico, perché io ci vado ai concerti quando posso, e vorrei difenderlo sto bene comune. I tecnici sono il terzo elemento, i tecnici si divertono a fare il loro lavoro e devono potersi divertire, devono poter avere la possibilità di fare un tecnico del suono, il suo suono, il suo, deve partecipare. Io ho lavorato con dei tecnici adesso, insomma, che erano animati proprio dalla passione, che non si alzavano dalla sedia finché il suono che veniva fatto, che usciva fuori dalle casse, non era di loro soddisfazione e di soddisfazione del musicista. Quindi, insomma, sono tre componenti, queste, secondo me, importanti, che vanno risaldate, perché non sono più saldate, se ne vanno ognuna per conto suo. Ovviamente non viviamo in tempi facili, ognuno ha i suoi problemi e si deconcentra, però poi si deprime. E allora, per evitare anche la depressione, cerchiamo di collaborare tutti quanti. Va bene, con questo auspicio andiamo a chiudere, ci andiamo a sentire ancora un'ultima canzone che ti chiedo di presentare. Swing, sì, ah, certo. Si tratta di Minor Swing, uno dei pezzi più famosi di Django, quindi non ha bisogno della mia presentazione. Va bene, noi vi ringraziamo per il tempo che ci avete concesso. Grazie da a voi. Questi grazie microfoni, e diamo appuntamento a stasera per chi volesse ancora sentire di questa musica finalmente dal vivo.